Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:27 minuti? Questa è Radio Possum. Mi senti? Purtroppo sì, mi sento. Purtroppo ti sentono tutti. Purtroppo. Trovate qualcun altro se non volete fare la trasmissione con me. Ma tu basta che non parli. Serve un tecnico esperto. Poi ci porti da bere, che ne so, da mangiare. E che vi porta? Porta un po' di seitan. La sarciccia. Vabbè, banda alle cazzate. Dicevo, sono le 22:28 minuti ormai. Un minuto di fesserie, di che cosa parliamo oggi, tu che sei sempre così ligio al dovere e serioso nella nostra trasmissione? Stasera risentiamo i ragazzi e le ragazze del coordinamento contro il mega macello di Manerbio. La scorsa settimana avevamo già parlato a maggio, a Manerbio in provincia di Brescia, stanno costruendo un mattatoio gigantesco, si parla di per maiali, perché tra l'altro la Lombardia è una regione dove è molto diffuso l'allevamento di maiali, dove tra l'altro molte realtà antispeciste come Nemesi Animale hanno fatto anche alcune investigazioni e prodotto documentazione su quello che succede dentro gli allevamenti intensivi di maiali. Il mattatoio di Manerbio, se dovesse entrare in funzione, macellerà un totale di 1200 animali ogni ora, di 300 tonnellate di carne lavorata al giorno, 570.000 metri cubi di acqua consumata all'anno, ai quali vanno poi aggiunti 2,5 metri cubi di gas necessari per macellare un singolo animale. Quindi insomma è un disastro da tutti i punti di vista, per gli animali, è un disastro ecologico e via dicendo, insomma sono dei veri e propri ecoterroristi. E oggi sentiremo le persone che compongono questo coordinamento contro il mega macello di Manerbio, che da quando è nato il progetto si stanno occupando di cercare di boicottarlo e di fermare la costruzione, insomma sensibilizzando le persone con iniziative, manifestazioni, presidi. We'll be right back. Allora, rieccoci in diretta, abbiamo al telefono l'attivista del coordinamento contro il mega macello. Ci senti? Sì, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Senti, no, noi ci avevamo già sentiti a maggio, l'avevamo detto prima nell'introduzione e vi abbiamo richiamato insomma per fare oggi, tra l'altro avete fatto anche un presidio, poi ci dite come è andato. Sì. E, vi richiamiamo per fare un po' il punto sulla situazione a mesi di distanza e su quello che state portando avanti, magari se fai innanzitutto un piccolo riassunto per chi magari non aveva sentito la scorsa puntata o per chi comunque è all'oscuro di quello che sta avvenendo a Manerbio. Beh sì, va bene, come coordinamento contro il mega macello abbiamo fatto partire la campagna ancora verso dicembre dell'anno scorso. Abitiamo tutti in zona, quindi comunque diciamo che siamo abbastanza attivi sul territorio. Abbiamo organizzato dei presidi informativi, abbiamo organizzato lo scorso maggio, il 12 maggio, un corteo antispecista a Manerbio. Quindi nel senso comunque ci stiamo dando da fare. Il nostro è un po' un pretesto per parlare di alcuni temi che per noi sono fondamentali, come ad esempio l'antispecismo, il veganismo, la liberazione animale e non c'è modo migliore che appunto portare avanti una campagna e parlare di questi temi, visto che comunque si parla del macello, ma comunque il nostro è un pretesto anche per parlare degli allevamenti, di fatto che qui soprattutto nella bassa Brescia ce ne sono tantissimi, non solo di maiali ma anche di galline, di tacchini, di polli, e purtroppo i maiali sono considerati da questa società specista, antropocentrica, gli ultimi degli ultimi, quindi noi di fatto vogliamo essere la voce appunto di questi individui che sono vittime dello sfruttamento, ecco. E così, quindi come dicevi tu, proprio questa sera è finito da poco un presidio che si è svolto davanti al comune di Manerbio, perché c'è stato il consiglio comunale. All'ordine del giorno non hanno parlato del mega macello, lo sapevamo, ma comunque da un po' che eravamo fermi, quindi volevamo farci sentire dal sindaco e dalla giunta, che peraltro non ha avuto nemmeno il coraggio di passare, come dire, di farsi vedere, ma ha preferito passare dalla porta dietro diciamo che ha fatto il giro con la macchina e non ha avuto nemmeno il coraggio di farsi vedere. E vabbè, comunque sappiamo che il sindaco e la giunta sono assolutamente favorevoli al progetto, l'hanno sempre dichiarato, e purtroppo è una questione di partito anche, nel senso che la giunta di Manerbio è una giunta della Lega PDL, sappiamo che molti comuni limitrofi di Manerbio sono favorevoli al progetto, ma perché comunque c'è proprio il partito che spinge. Che spinge molto, però vabbè, noi al di là del discorso dei partiti che poco ci interessa, il nostro è un discorso politico, siamo contro lo sfruttamento animale in tutte le sue forme, sia esso destinato riferito agli animali cosiddetti da reddito da carne, ma anche gli animali da laboratorio, da pelliccia, ma contro qualsiasi tipo di discriminazione, quindi sia contro lo specismo, razzismo, sessismo, fascismo, qualsiasi tipo di discriminazione appunto, e basta, diciamo così. E senti, io ti volevo anche chiedere un'altra cosa. In questi mesi sono uscite, in realtà negli ultimi anni, a essere più precisi, sono uscite diverse investigazioni, diverse documentazioni su quello che sono gli allevamenti dei maiali, no? Per rendere un'idea, al di là delle immagini, che cos'è un allevamento intensivo di maiali? Cioè, gli animali a quali pratiche sono sottoposte, per esempio, non so, l'estrazione dei denti ai cuccioli di maiale per non ferirsi tra di loro, e anche la stessa macellazione del maiale, per esempio il fatto anche che il maiale spesso viene, soprattutto nei grossi mattatoi industriali, finiscono nelle vasche di acqua bollente ancora vivi. E quindi, sì, esatto. Non che una macellazione indolore fosse più giusta, chiaramente, però proprio per dare l'idea dell'orrore assoluto. Che... Chiaro, guarda, noi... la nostra è la campagna contro la catena di smontaggio Hamburger Pini, però di fatto il nostro è un pretesto, come dicevo prima, per parlare degli allevamenti, perché il macello è solamente l'ultimo step. Ci sono migliaia e migliaia di individui che sono rinchiusi in questi lager, che sono dei lager che vivono una vita d'inferno. Noi ad esempio come coordinamento abbiamo realizzato un'investigazione che abbiamo fatto uscire nei primi mesi del 2012, un'investigazione recentissima, questo per dimostrare che le condizioni e gli allevamenti, cioè quello che viene visto, non sono immagini datate, non sono immagini di 10 anni fa, sono immagini che risalgono a gennaio, febbraio del 2012 nella Bassa Bresciana, in questa zona. E ti dico che entrare in quei luoghi è, cioè, sono comunque al di là del fatto di quello che vedi, ma anche l'odore, i rumori, tutto quanto, sono immagini che comunque indelebili, ok? E magari anche un po' difficile da descrivere. Diciamo che le immagini comunque sono, parlano da sole. Individui, decine e decine di individui rinchiusi in recinti che fanno praticamente, sono, non hanno la possibilità di deambulare, e questo soprattutto avviene, diciamo che il dramma maggiore avviene nei reparti di maternità, in cui ci sono le mamme che sono sdraiate sul fianco e non possono muoversi e stanno lì tutta la vita e veramente, boh, ci si immedesima in loro e non possiamo che prendere le distanze veramente da questo tipo di attività. E vabbè, sì, come dicevi tu, poi i piccoli quando nascono, dopo 2-3 giorni, ai piccoli vengono tolti i denti e viene tagliata la coda, perché comunque, essendo esseri senzienti, essendo esseri che riconoscono perfettamente, che provano emozioni e sentimenti e riconoscono perfettamente il loro stato di schiavi, riconoscono la loro situazione di schiavitù, riconoscono la loro prigionia, riconoscono che non possono sfuggire. Tra l'altro, scusa, allora, nel caso dei maiali, oltretutto si tratta di animali molto intelligenti, per esempio. Sì, molto intelligenti, molto socievoli anche. Molto più intelligenti dei cani, tanto per fare un esempio. Guarda, chi ha avuto modo di vederli in libertà, ad esempio nei rifugi, ok? Sono degli animali strepitosi. Io ho avuto modo di vederli recentemente e ti dico che per la prima volta, peraltro liberi, ed è stata un'emozione fortissima, perché addirittura se li chiami per nome loro rispondono. Cioè sono veramente... E che purtroppo loro nascono maiali e quindi in automatico sono destinati a essere macellati e mangiati. E purtroppo ci sono esseri viventi che nascono maiali, nascono visoni, nascono galline, e in automatico in base alla specie d'appartenenza poi vengono etichettati e poi vengono sfruttati. E questo è quello che vorremmo abbattere, insomma, questa discriminazione, ecco, insomma, che vede gli animali non umani vittime e quindi noi abbiamo modo, anzi noi dovremmo essere proprio, oltre a essere la voce di coloro che sono rinchiusi in gabbia, c'è il nostro voler fare attivismo anche di denuncia, cioè informare le persone, far vedere che cosa sono gli allevamenti, che sono tutti questi lager costruiti dall'essere umano che sarebbero tutti da distruggere, da abbattere, dal primo all'ultimo. Senti, ti volevo dire... ti volevamo chiedere una cosa. Voi, come molte altre campagne, per esempio ricordavamo Morini, no? Tra di noi, ci si scontra sempre con un'opposizione da parte delle realtà locali che mettono davanti sempre la questione dei posti di lavoro, questione che soprattutto di questi tempi è molto sentita e soprattutto è molto strumentalizzata. Immagino che anche voi vi riceviate questa risposta da parte, no? Delle autorità, delle istituzioni, dei sindacati soprattutto, e via dicendo. Ma per esempio invece la reazione della gente a Manerbio, perché comunque il mattatoio di Manerbio, a parte tutto, è, al di là di qualsiasi altra considerazione sugli animali, ma è proprio un vero e proprio mostro ecologico, perché ha un'emissione di gas, un consumo di acqua e via dicendo. La reazione delle persone a Manerbio e nelle zone limitrofe invece com'è? Ma c'è molta indifferenza, tant'è che anche sia quando abbiamo organizzato ad esempio il corteo Manerbio e anche stasera non c'era praticamente nessuno del paese. Però ecco, per quanto riguarda il discorso dell'occupazione, il sindaco, che è, come dicevo prima, favorevole, punta molto, anzi proprio punta solamente, diciamo così, alla questione dell'occupazione. Stranamente da quando è stato presentato il progetto, quindi da qualche mese, i posti di lavoro sono lievitati da 700 a 1300 e poi nuovamente calati. Ora noi rispondiamo che, ok, il diritto al lavoro, ma anche il diritto alla vita, nel senso, noi non accettiamo quel tipo di lavoro, e quindi a noi, come antispecisti, come, non lo so, è poco interesse della questione lavorativa, nel senso... No, ma è chiaro, non è che uno andasse veramente a fare... vale un miliardo di, esatto, posti di lavoro, è ovvio. E poi non lo so, io credo anche che uno fa la, non lo so, pensare di andare a lavorare in un macello, non lo so, credo che proprio anche psicologicamente sia devastante. Quindi quelli che dicono sia al macello solo per questioni di lavoro forse non sanno esattamente quello che stanno dicendo, perché comunque vuol dire stare in ambienti comunque freddi, perché io credo che comunque anche per la lavorazione della carne e tutto quanto, cioè comunque ci sono degli ambienti tipo, non so, c'è le frigorifere, così stai comunque 8 ore al giorno a contatto col sangue, guardi negli occhi le tue vittime e non lo so, io credo che dopo un po' la gente, non lo so, vada fuori di testa, credo. No vabbè, ma è chiaro che quello del lavoro è soltanto un pretesto, lo usano un po' dappertutto, come pure in Valsusa, dicono la TAV porterà al lavoro, anche il poliziotto dice io lavoro, io vabbè potevi stare a casa. È chiaro, vabbè, guarda sì. Noi, ecco, a Manerbio è lo stesso, diciamo che a Manerbio è uguale, però ecco, noi diciamo, rispondiamo così, diritto sia al lavoro ma diritto anche alla vita, non lo so. No, no, ma è chiaro, comunque quella del lavoro è soltanto un pretesto che viene usato periodicamente. Appunto, anche i gerarchi nazisti hanno detto, noi stiamo soltanto esatto. facendo il nostro lavoro, poi diciamo, la storia la fanno i vincitori e quindi gli si è scagliata contro. Purtroppo non possiamo dire la stessa cosa per casi come quello di cui stai parlando tu. Senti, invece, quali sono i prossimi eventi, le prossime iniziative? Insomma, ci sono appuntamenti, assemblee, manifestazioni, cose che volete segnalare? Ma guarda, allora, beh, segnaliamo che abbiamo ricevuto qualche settimana fa in forma anonima un video di una liberazione di 3 maiali. Il video dura 4 minuti, inizialmente c'è parte di un'investigazione sempre all'interno di diversi allevamenti presenti in Lombardia, con un finale a sorpresa, ovvero la liberazione di 3 piccoli maialini, e questo abbiamo ricevuto in forma anonima in supporto alla campagna, quindi per chi non l'avesse ancora visto si può vedere o sulla nostra pagina, insomma sui nostri canali, oppure anche su YouTube, per dire. E vabbè, tipo, non lo so, il presidio di stasera ad esempio l'abbiamo indetto perché settimana scorsa i tecnici che hanno lavorato, i progettisti che hanno lavorato appunto al progetto del mega macello, hanno consegnato in comune la, diciamo, una, come si dice, una relazione sull'impatto ambientale, definendo un'oasi industriale nel verde questo progetto, quindi un'oasi industriale in cui verranno uccisi sistematicamente 12.000 individui al giorno, e quindi di risposta noi ci siamo presentati, giustamente. E vabbè, oltre a questo, prossime iniziative non te le so dire, non lo so ancora, vedremo un po' come va. Noi comunque continueremo a mantenere alta l'attenzione e non lo so, comunque non ti so dire per ora. Comunque no, possiamo poi comunque lasciare i contatti del blog, sì, e tutto quanto, così le persone comunque seguono e si aggiornano direttamente poi sui nostri canali. Sì, abbiamo un sito che è controlmegamacello.net, oppure la pagina Facebook che è coordinamento contro il megamacello, digitando così, vabbè, sul motore di ricerca lo trovi. E poi cos'altro? La pagina Flickr, in cui abbiamo pubblicato le investigazioni, la documentazione fotografica, che è in fase ancora di aggiornamento, e basta, c'è un'infoline attiva, una mail, e così, ecco. E niente, poi ti ricordiamo ovviamente che per qualsiasi aggiornamento, notizia, necessità di comunicare iniziative o qualsiasi altra cosa, Radio Onda Rossa in generale, Radio Possum, la nostra trasmissione in particolare, è sempre aperta, quindi qualsiasi cosa contattateci anche voi, insomma vi daremo sicuramente spazio, ecco. Come, sì, ecco, beh, io vorrei solo aggiungere una cosa, che sì, noi sappiamo che ovviamente la gente, le persone provano meno empatia se si parla di maiali, e alcuni di noi hanno preso parte attivamente anche alla campagna, siamo, diciamo, anche attivisti del coordinamento Fermare Green, quindi diciamo che quest'altra campagna antispecista, diciamo, anche un po' una sorta di non di provocazione, però c'è, cioè, nel senso che comunque come dire, vogliamo appunto parlare di antispecismo, e sappiamo benissimo che non porteremo mai in piazza 3-4 mila persone, però comunque vorremmo passare il messaggio che, così come hanno sofferto i 2700 cani beagle, che fortunatamente sono stati tutti collocati, adottati, però allo stesso modo soffrono anche i maiali, soffrono anche le galline, così. E vabbè, poi purtroppo qui in provincia di Brescia, oltre a Green Hill e oltre al progetto del mega macello, c'è anche l'allevamento di visoni, che presenta Montirone della famiglia Bellina De Poli, che detiene oltre 3.000 individui. E quindi, nel senso, siamo circondati da posti in cui veramente gli animali sanno. Poi nel Bresciano, diciamo, ci sono anche tutte una realtà di caccia e di bracconaggio, contro cui tra l'altro si svolgono ogni anno dei campi antibracconaggio, che purtroppo è molto radicata, insomma. Sono con l'uso dei richiami vivi e via dicendo, sì. Insomma. Guarda, sono proprio in corso dei campi antibracconaggio. Sì, sì, noi abbiamo degli amici che sono attivisti, comunque, che sono persone splendide. E effettivamente Brescia, la zona soprattutto della Val Trompia, quindi Gussago, quella zona lì, anche alta Val Trompia, è una zona caldissima. Sì, sì, sì. Una sì, zona sì, caldissima, e c'è uno sterminio costante, soprattutto adesso che in questo periodo, che di passo di uccelli, diciamo. Sì, tra archetti, reti, eccetera, è incredibile. E fortunatamente anche, purtroppo, occuparsi di tutto è impossibile. No, però cioè, diciamo, occupandosi di una cosa ci si occupa più o meno. Sì, sì, sì. Dico, fortunatamente ci sono persone veramente che si svegliano alle 3 di mattina e vanno a fare i campi antibracconaggio, e veramente persone splendide, insomma, comunque. Cioè, tra l'altro, già che ci siamo, ricordiamo che per informazioni sui campi antibracconaggio a Brescia e altro si può consultare il sito della LAC o il sito del comitè tedesco, dove sì, sono, esatto, le associazioni, sì, che, sì, organizzano, sì, i campi a Brescia, in Sardegna e via dicendo. Esatto, e sì. Va bene, se non so se hai altro da aggiungere. No, a posto, altro grazie. Dire. Perfetto, e allora ti salutiamo e okay, vi facciamo i migliori auguri per la campagna. E grazie. Ci risentiamo. Grazie, speriamo spazio di risentirci presto per belle notizie. Ok, grazie a voi, ciao. Ciao, buona ciao, serata, ciao. Ciao. Ciao. We'll be right back. Eccoci di nuovo, e sempre per parlare un po' della zona del Bresciano, vogliamo adesso anche dire una brutta notizia. Infatti, dopo il ricorso che è stato fatto da Green Hill, è stato accettato questo ricorso e si è avuto il dissequestro della struttura. Le informazioni ancora non sono ben note, e infatti ci teniamo ad approfondirle nelle prossime puntate. Allo stato attuale, appunto, sono stati tolti i sigilli e quindi non si sa se Green Hill proseguirà nella propria attività e non si sa neanche se, appunto, richiederà il ritorno dei cani beagle che erano stati dati in affidamento. Attualmente non è stata fatta una richiesta di questo tipo, però si paventa anche questo, quindi l'attenzione su Green Hill deve essere ancora alta, perché la battaglia non è chiusa, e anche noi proveremo a seguire questa vicenda quando si sapranno informazioni maggiori. Una piccola riflessione rispetto anche alla telefonata di prima. Ovviamente in questa zona del Bresciano, che sappiamo, che sentiamo spesso e che sappiamo anche molto attiva sul fronte della lotta antispecista, contro la vivisezione, contro le pellicce, contro, appunto, i macelli, però ricordiamo che tutto ciò esiste anche da noi ed esiste in tutta Italia, in tutto il mondo. Quindi un invito a tutti ad attivarsi anche in altre zone, e anche a non dimenticare che gli allevamenti di vivisezione non avranno cani, però hanno specie animali diverse anche vicino a casa di tutti noi, diciamo. Quindi esiste vicino a noi. E niente, e quindi questa è una triste realtà, come esiste il bracconaggio, la caccia e tutto e quant'altro. E per un'altra piccola notizia, così per spostarsi su un altro tema, quello legato alla vivisezione dei vaccini, recentemente la Novartis, nota azienda farmaceutica, ha subito un danno, cioè sono state ritirate dal mercato delle dosi di vaccino, tipo 2 milioni di dosi di vaccino che erano disposte per appunto la vaccinazione preventiva antinfluenziale. E questo ci fa fare un attimo una riflessione sulla medicalizzazione che porta ogni periodo, in questo periodo, appunto, a indurre persone, le cosiddette fasce deboli, a vaccinarsi senza rendersi conto che, appunto, queste vaccinazioni non fanno altro che non sono altro che una strategia commerciale che ci inducono a essere vittime di una medicalizzazione forzata, ci fanno sentire malati e ci ammalano, anche perché appunto ogni farmaco che poi si assuma ha degli effetti collaterali, oltre al fatto che i farmaci, appunto, sono lungamente testati su animali. Sempre sulla Novartis, un altro piccolo appunto: si prevede un ampliamento degli stabulari nella zona di Prato, tanto che si sta aprendo anche una campagna di un comitato locale, che anche speriamo di sentire nelle prossime puntate, che si sta opponendo a questo ampliamento degli stabulari. Quindi, diciamo, la Novartis forse sarà il tema di qualche prossima puntata di approfondimento sul tema della medicalizzazione. Mettiamo un po' di musica adesso e passiamo all'angolo degli appuntamenti. O vede qualche altra notizia così flash? C'è da dire una notizia apparsa sul sito di Fermare Green Hill, che ve la volevo leggere, ma non mi si carica il sito, perfetto, aspettate un attimo. Comunque, intanto ve l'anticipo proprio, eccolo qua. Chiuso allevamento Beagle di Arlan in Germania. Come sapete, 2 settimane fa c'è stata la manifestazione contro uno dei 2 stabilimenti di Arlan in Italia. E Arlan è una multinazionale di allevamenti di animali, cani, ma anche ovini, topi, roditori in generale, maiali e via dicendo, destinati ai laboratori. Leggo il comunicato apparso sul sito fermaregreenhill.net. chiuso allevamento Beagle di Arlan in Germania a Eistrup. L'ultimo allevamento di cani dell'Arlan in Germania è chiuso i battenti. Da tempo era stata chiusa la sede di Borkem, contro cui nella fine degli anni 90 era nata una campagna di protesta che l'aveva portata alla ribalta della cronaca. La sede di Eistrup era diventata quindi l'unico centro di allevamento di cani per i laboratori in Germania. Da questo centro nel 2006 erano stati liberati 11 cani Beagle e sono state diffuse molte foto. Adesso il centro di Eistrup è stato confermato chiuso e Arlan sembra che abbia spostato parte dei cani nella sua sede inglese, la Arlan Interfauna, situata ad Huntingdon, contro cui si sta mobilitando la campagna Save the Arlan Beagles. Il sito è savethearlanbeagles.com. Anche nei cataloghi della stessa Arlan questo indirizzo non risulta. Insomma, ha chiuso uno stabilimento dell'Arlan, il che è sicuramente una buona notizia. Un'altra notizia che mi è venuta in mente adesso, non so chi di voi ha sentito che Air India avrebbe terminato il trasporto di animali per la vivisezione. Ecco, è stata ritirata questa dichiarazione. Infatti, dopo una campagna che era stata fatta contro Air India o contro altre compagnie aeree che appunto trasportano animali per visizione, in particolare scimmie che vengono prese in libertà e poi portate nei laboratori di tutto il mondo. Questa campagna sembrava aver avuto un buon esito, invece non è così. Quindi Air India, come Air France, rimane uno dei grandi nemici di questa campagna, che su altre fonti ha vinto. Air France e KLM, che sono due compagnie diverse ma la stessa proprietà, una è francese e l'altra olandese. Vabbè, mettiamo un po' di musica. Because Allora, eccoci qua. Non ridere che poi muori, perché appunto fuma. E poi mi sento... questo è il momento più importante della serata, almeno per quanto mi riguarda. Io vengo solo per questo, ormai questo è il Giovanardi moment. Comunque sei veramente un personaggio vergognoso, mocio, guarda, sei un... Ma ti sei visto in faccia? Sei imbarazzante. Ma di che stai parlando? Tanto sei pagato da Giovanardi per fargli pubblicità, ma vieni qua in radio a fare pubblicità a Giovanardi. Ma che schifo. Io mi dissocio perché volevo tenere un piano di serietà di questa puntata. Comunque io penso che il prossimo spotino per Giovanardi potrebbe essere, non so se l'avete mai sentita quella canzone che fa tipo c'è te, ci sta cosa magari, così poi andiamo avanti. Comunque, che è successo? È successo che in quel di Rivara c'è la popolazione si sta opponendo a un deposito di gas per varie ragioni, tra cui anche il fatto che i depositi di gas, essendo ad alta pressione, causano terremoti. Ci sono già un po' di ricerche scientifiche a questo proposito anche sui depositi di petrolio. E quindi qual è stata l'immancabile risposta del nostro supereroe Super Giova? Loro sono i principali problemi dell'Italia, come i Notav. Tan tan tan. Cenere, Sara, tira le tende sintetiche. adesso apriamo lo spazio degli appuntamenti. Allora, primo appuntamento è sabato 3 novembre, leggo dal sito di Nemesi Animali, www.nemesianimali.net, protesta contro i lager per visoni, ore 14, Piazza Italia, con messaggio Mantova, ore 16.30, allevamento di visoni Antoniazzi, Vano, via Colombarola, San Cataldo, Mantova. Allora, l'abbiamo già letto la scorsa volta, però rileggo qualche estratto del comunicato. L'allevamento di visoni a riva loro non si farà. Bisogna però tenere d'occhio la situazione, in quanto il signor Vernizio Luciano ha presentato un progetto di dimensioni spaventosi per costruire un totale 28 capanni in cui imprigionare 40.000 visoni, con possibilità di ampliare in futuro fino a 60.000. Diventerebbe il più grande allevamento di visoni mai esistito in Italia, uno dei principali in Europa. Sicuramente Vernizzi non mollerà facilmente l'idea del progetto e cercherà terreni in altri paesi dei dintorni. Non possiamo permettere che questo immenso lager venga costruito. La mobilitazione non si ferma. Abbiamo deciso di spostare la protesta del 3 novembre da Riva Loro del Re a Commessaggio, paese in cui abita il signor Vernizzi. Andremo a parlare dei suoi progetti e del suo lavoro nel piccolo paese in cui abita e fargli capire che non vogliamo assolutamente la costruzione di questo allevamento. L'altro appuntamento? Sì, prima dell'altro appuntamento, visto parlavamo di visioni di animali da pelliccia, sul sito esseranimali.org trovate un link e un articolo su una investigazione sugli animali di pelliccia che è stata realizzata in Norvegia da un gruppo locale di attivisti che si chiama Network per la Liberazione Animale, chiaramente tradotto in italiano. Leggo da Cinesi Animali, il Network per la Liberazione Animale diffonde una nuova investigazione sugli allevamenti di animali da pelliccia con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e ottenere un divieto. Le immagini mostrano volpi e visoni perennemente rinchiusi in spazi minuscoli, sottoposti ad una sofferenza fisica e psicologica devastante, con ferite e ulcere su varie parti del corpo. Animali con arti amputati che barcollano sulla rete metallica che costituisce il pavimento della gabbia, altri che si aggrediscono fra di loro in preda a ossessionanti comportamenti ripetitivi riconducibili allo stato di cattività in cui si trovano. È inutile che vi do il link diretto del video perché vi dovrei leggere in norvegese l'indirizzo, e vi dicendo quindi chi è interessato lo può andare a vedere sul sito esseranimali.org. E invece l'altro appuntamento e in generale un aggiornamento che volevamo fare è quello che deriva la scorsa settimana abbiamo parlato della ZAD a Nantes in Francia, dove si difende un territorio dalla costruzione di un aeroporto. In questa settimana sono arrivati aggiornamenti, la ZAD è sotto sgombero. Continuamente le persone che stanno occupando questa zona devono fronteggiare le aggressioni delle forze dell'ordine, gli sgomberi, le violenze e via dicendo. Il 17 novembre ci sarà una manifestazione di rioccupazione della zona. Il 30 ottobre alle 7:30 ci sarà un'assemblea di organizzazione. E in generale chiunque voglia essere aggiornato su quello che succede sulla ZAD può consultare il sito zad.nadir.org. Per questa puntata penso che abbiamo finito. Se abbiamo qualche altra cosa da aggiungere che non sia divagazione e cazzate. Guarda che devi parlare nel microfono, tanto che fate tutti i seri. Sta pensando a inventarsi qualche altra cazzata su Giovanardi o del genere. È che io non capisco perché questa dittatura della seriosità che mi automaticamente mi esclude dalla trasmissione, visto che io so parlare soltanto di calzate, cioè non è che potete fare così come vi pare, perché sennò io piscio il mixer, voi non siete buoni a usarlo. ridi. Vabbè, no, niente. Prima di salutarci, vi avvertiamo che adesso metteremo uno spot di una trasmissione che inizierà questo giovedì qui in radio e continuerà per altri giovedì, e che vogliamo invitare tutte e tutti ad ascoltare. Una trasmissione che parlerà in un primo momento appunto di repressione, di quello che è stato l'attacco dello Stato contro gli anarchici. Si parlerà anche di molte altre cose. Comunque è una trasmissione interessante che vi invitiamo a seguire, ecco. Hai visto quanto sono serio? Per una volta. Finalmente. 30 secondi se riuscite a essere. Vabbè, allora niente, diamo i contatti. Li sai i contatti? Io? Il blog è radiopossum.noblogs.org. E la mail è la gazza ladra chiocciola inventati. Chiocciola. Si dice chiocciola. Chiocciola inventati.org. Forse mi dovrei prendere un vaccino invece di. Prendi il vaccino. Poi vabbè, qui tra uragani, vaccini, insomma, la tensione è sempre a mille. Vabbè. E niente, metto lo spottino, mandiamo un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale. Siano essi umani o non. Ciao. Ciao. Ciao.